Con Daniele Incalcaterra, co-regista del documentario Ciaco, che sarà a Roma al Nuovo Cinema Aquila giovedì 21 marzo 2019. Daniele, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie. Lo raccontiamo questo lavoro? Un po' difficile, però diciamo cerchiamo di raccontarlo. Il film che vedrete è il secondo film, ci sono un primo film, cioè in poche parole. Da 10 anni mi occupo di trovare una soluzione coerente su un'eredità di 5.000 ettari di foresta vergine del Chaco. Chaco è la seconda foresta più importante dopo l'Amazzonia in Sud America. Ricevuti da mio padre. L'idea Fausta Quattrini era quella di restituire questi 5.000 ettari al suo popolo originario, nativo, che sono i Guarani Yanderas. Però un'operazione molto complicata che ha durato 10 anni e che ha fatto sì che sono stati girati due film, uno che si chiama Le Penetrabili e il secondo Giacomo, che è sulla stessa storia. In poche parole, ho cercato di proteggere questi 5.000 ettari dalla deforestazione imminente. In quella zona si butta di una foresta per produrre carne e ultimamente soia transgenica. E davanti a questo grande problema, proteggere 5.000 ettari e restituirla ai Guarani Yanderas non è compito facile. Una doppia curiosità, come si sta muovendo in tal senso la società civile da una parte e dall'altra come si stanno muovendo le autorità se si stanno muovendo? Allora, siccome durante questi 10 anni ci sono stati anche tre governi in mezzo, con il primo governo di Fernando Lugo, governo di centro-sinistra, sono riuscito ad avere una riserva per decreto presidenziale per proteggerla, per poter restituire agli indiani, si chiama Arcadia. Caduto Lugo, l'hanno fatto fuori, in poche parole, per un problema grave che è successo nel paese, c'è stato un massacro di Campesinos, è arrivato un governo di destra. E con il governo di destra l'idea di restituire terra agli indiani e l'idea di proteggere la foresta non è nei loro interessi, perché al contrario, bisogna buttare giù per produrre di più, perché il Paraguay è diventato il quarto esportatore di soia transgenica e il quarto anche produttore di carne del mondo, anche esportatore. Questi sono i motivi principali. Poi l'attuale governo, lo stesso governo di destra, un po' più sensibile, però non fa neanche lui il suo dovere. Davanti a queste difficoltà non è che hai molte soluzioni. La società civile si sta auto-organizzando in qualche maniera? Durante il primo governo, evidentemente la società civile, può immaginare che Lugo, quando vince l'elezione, vince dopo 60 anni di predominanza di un partito che si chiama Colorado, nei quali 35 anni sono stati sotto la dittatura di Stroessner, e c'è stata come una primavera nel paese, una primavera democratica, cioè la società civile era molto più sensibile a queste questioni, sia le questioni ambientali che sulle questioni dei popoli originari, però Lugo è rimasto al potere appena neanche 3 anni e le porte si sono chiuse e il paese è ritornato come all'epoca del Partito Colorado, cioè un paese che la cosa principale da difendere è la proprietà privata. Oggi la società civile ritorna a riprendere un po' fiato perché sono stanchi di vedere che le terre sono distrutte, vedere che una grossa parte dei deputati e senatori sono dei personaggi corrotti, vedere una giustizia in mano di giudici corrotti. Evidentemente la società civile è un po' stanca di questa situazione e ha ricominciato a prendere parola e anche protestare. Cioè, sono delle situazioni in Paraguay che si ricomincia a parlare un po' di ambiente e soprattutto di giustizia. Daniele, come hai strutturato il racconto nel tuo documentario? Allora, è strutturato come un thriller politico, cioè è strutturato naturale Arcadia, di Federa pura, perché poter fare giustizia, si ritrova in una situazione particolare. Sto parlando dell'ultimo periodo, è stato un governo di destra, dove il grosso dei politici e degli uomini grandi proprietari di terra non avevano nessuna voglia che esista una riserva in mezzo a dei proprietari che sono dedicati a distruggere la foresta per produrre, come ha detto, carne e soia. Allora mi trovo con questi nemici che non sono piccoli, ma sono dei personaggi poderosi, perché sono anche parte del governo. E dall'altra parte gli indiani, anche loro stessi, hanno grossi problemi, perché sono le loro riserve, anche se sono riconosciute, sono anche loro messe in pericolo, perché da una parte i proprietari penetrano nei loro territori, e dall'altra parte, siccome non hanno nessun aiuto da parte del governo, loro stessi delle volte affittano o anche vendono dei pezzi del loro territorio per poter avere qualche economia in mano. Daniele, in chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più sul tuo lavoro? Ne sta occupandosi la produzione italiana, se non mi sbaglio verso Chaco. Sì, su Facebook ho visto che c'è Chaco il Tour, proprio come pagina Facebook. Chaco il Tour, ci sono le date e i luoghi dove sarà presentato il film. Bene, e allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, giovedì 21 marzo 2019, con Chaco. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Daniele Incalcaterra. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, in tutti i casi, siccome sono presente, avrò anche l'occasione di incontrare il pubblico e parlare personalmente di questo film e della situazione del Paraguay. Bene. Grazie a tutti e a presto. Ciao Daniele, ciao. Ciao.